In questi giorni sono stato assente da Milano e non ho avuto modo di ascoltare la radio. Ma immagino che buona parte di voi, cari ascoltatori, e buona parte dei miei amici redattori e collaboratori di questa emittente abbia espresso il suo compiacimento per l'ordinanza con cui la quinta sezione della Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza di revisione del processo che ha condannato Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani per l'uccisione del commissario Calabresi. Compiacimento non entusiasmo, perché nessuno di voi e di loro è il tipo da entusiasmarsi per una virtuale condanna a vita, e molti per di più non hanno rinnegato gli antichi legami di amicizia e di militanza comune con i condannati, ma un certo pur contenuto compiacimento da parte vostra e da parte loro mi sembra proprio inevitabile. È questione di coerenza. Perché è vero che Radio Popolare lunedì scorso ha trasmesso e voi tutti avete applaudito l'appassionata aringa di Dario Fo sulle 124 contraddizioni del pentito marino, ma una cosa è trasmettere e applaudire una aringa, per appassionata che sia, e una cosa è esprimere una vera solidarietà a una delle parti in causa, ed è su questo che all'indomani di quel pronunciamento non si può fare a meno di riflettere. Vedete, quell'ordinanza è stata pronunciata dalla quinta sezione della Corte d'Appello su conforme parere della Procura Generale, ma questo dato di fatto mi sembra abbastanza casuale. Io non conosco quei giudici, non ne metto in dubbio la buona fede, non ho letto le loro motivazioni, a parte gli scarsi frammenti che ne ha reso noto la stampa, ma non credo che altri giudici avrebbero potuto esprimere un parere diverso. Quella sentenza, perché formalmente è un'ordinanza, ma di sentenza in buona sostanza si tratta, era inevitabile, perché è l'espressione di una cultura giuridica che permea di sé buona parte delle nostre istituzioni. È una cultura che non prevede che esista una figura di giudice neutrale, o come credo che si dica in termini più tecnici, terzo tra le parti, perché ostinatamente si rifiuta di distinguere all'interno della magistratura tra ruolo giudicante e inquirente, e tende anzi a dare la prevalenza in termini di prestigio e di autorevolezza a chi esercita la funzione inquirente, una cultura che poco o nulla si cura delle prove concrete, perché le pospone al libero convincimento di chi deve giudicare e all'implicito pregiudizio a favore di quanto più o meno liberamente hanno dichiarato i pentiti e i collaboratori, una cultura che tende inesorabilmente a identificare la giustizia con le sentenze di condanna e che vede la massima iattura nel fatto che a una condanna in un modo o nell'altro qualche volta non si arrivi. Di questa cultura illiberale, ahimè, non siamo esenti neanche noi. Anche per noi, più delle volte, una assoluzione o una non condanna è una iattura. Abbiamo attribuito alla magistratura un ruolo istituzionalmente indebito di sanatore di tutte le contraddizioni della nostra vita sociale, tendiamo a schierarci al suo fianco ogni volta che qualche suo esponente denuncia un tentativo di diminuirne i poteri, senza mai chiederci se certi poteri che la magistratura rivendica siano compatibili con le nostre idee in fatto di giustizia. Mercoledì scorso è stata ribadita una condanna che a molti di noi pare ingiusta, ai danni di tre persone che consideriamo innocenti, e abbiamo sentito tutti il bisogno di protestare. Ma non tutti forse ci siamo resi conto che quella condanna, che è al tempo stesso assoluzione indiscriminata di quanti hanno pronunciato le condanne precedenti e rifiuto corporativo di metterne in discussione qualsiasi aspetto, mette in crisi molte delle nostre reazioni abituali in fatto di giustizia, inclusi i nostri atteggiamenti verso la magistratura. Credo che nessuno possa negare che la condanna dei tre di lotta continua sia stata voluta da tutta la magistratura nel suo complesso, compresa la amatissima Procura della Repubblica di Milano, che ha fermamente voluto il processo a Sofri e ai suoi compagni, che ne ha ottenuto la condanna in primo grado, e i cui membri, da Borrelli in giù, compreso quelli più ostinatamente difesi dalla nostra sinistra nei loro scontri con i vari governi, non hanno mai neanche fatto finta di dissociarsi dagli sviluppi successivi del caso, sentenze suicide e pressioni sui giurati compresi. E intanto noi, chissà perché, siamo sempre stati pronti, non dico a schierarci, ma ad appiattirci a tappetino sulle posizioni del primo magistrato che attaccava il Parlamento e il sistema parlamentare, e non certo in nome di una maggiore democrazia, di una maggiore giustizia, ma in nome del mantenimento dei privilegi del suo ordine e del Moloch della non separazione delle carriere. Per questo, all'inizio, cedendo al gusto di una provocazione che spero non vi abbia offeso, dicevo che quando deploriamo gli esiti del processo calabrese non abbiamo tutte le carte in regola. Finché non ci convinceremo che il problema principale della giustizia è quello delle garanzie dei singoli di fronte all'istituzione, che il fine dell'attività giudiziaria non è quello di ottenere comunque delle condanne, e che è infinitamente meglio che ci sia abbondanza di colpevoli in libertà piuttosto che un singolo innocente in galera, fino allora le nostre proteste suoneranno, ahimè, sempre deboli. E il potere che si esercita su di noi sarà, ahimè, sempre più forte.